in primo piano. Le 7:33 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani, dove ovviamente domina il tema coronavirus e i primi casi e la prima vittima in Italia, come abbiamo sentito in tutti i nostri giornali radio, con la nostra inviata Raffaella Calandra, con tutti i collegamenti che abbiamo fatto anche con Rosanna Magnano dalla regione Lombardia, perché la Lombardia è la regione in questo momento più interessata, anche se sappiamo appunto che la prima vittima si è registrata in Veneto, quindi sicuramente nelle prossime ore avremo misure straordinarie da raccontarvi anche dalla regione Veneto. Pagine e pagine oggi sui quotidiani su questo tema, ovviamente pagine e pagine anche sulla prevenzione, e cercheremo di darvi conto un po' di tutto questo. Iniziamo dal Sole 24 Ore, anche qui il tema domina: virus in Italia, quarantena per 50.000, questo è il titolo. In Lombardia 15 contagiati in 10 comuni dell'Odigiano, altri due casi nel Padovano. Nell'area del focolaio chiuse con una ordinanza tutte le attività produttive. Centro pagina, passa a un altro tema: riaperto il ponte sulla A6, ma 157 viadotti sono da rifare. Sull'autostrada 6 Torino-Savona, nonostante l'inaugurazione del nuovo viadotto Madonna del Monte, ricostruito in soli 3 mesi dopo il crollo causato dalla frana del 24 novembre, i lavori non sono finiti. Di qui al 2036, infatti, tutti i 157 viadotti degli anni 50 dovranno essere rifatti o ristrutturati, così il Sole 24 Ore, che ci riporta anche una cattiva notizia che riguarda il fatturato dell'industria: primo calo in 5 anni, l'export non corre più, l'Italia è bloccata, perché l'Istat ci appunto comunica, il Sole ci poi approfondisce, l'Istat certifica una frenata corale a eccezione di tessile, farmaceutica e alimentare. Giù i ricavi dell'industria per il 2019 è stata rilevata una flessione rispetto allo scorso anno, sia il fatturato, -0,3%, il dato grezzo è quello corretto, sia dei nuovi ordinativi, -1,9%, e questo chiaramente sarà un tema di discussione, e che si unisce poi anche alle paure appunto legate al coronavirus e a quanto potrà accadere di qui in avanti, quindi non solo rispetto ai dati che sono relativi al passato, ma quello che può succedere. Come ogni sabato sul Sole 24 Ore c'è l'approfondimento food, economia del cibo ed agroalimentare. Oggi il tema è: pronto il disegno di legge, l'agropirateria diventerà reato. Andiamo al Corriere della Sera, sono contato prima, mi pare 15-16 pagine dedicate al tema coronavirus in apertura. Il virus in Italia, un morto in Veneto, questo è il titolo di apertura, e poi dopo la fotonotizia sotto con uno dei pazienti portato in barella nell'ospedale. Con i sanitari tutti vestiti come abbiamo imparato, insomma, a vederli, completamente ricoperti, mascherina e corpo con una tuta bianca. Un uomo di 78 anni è la prima vittima, ricorda il Corriere. In Lombardia 15 casi, nei comuni chiuse scuole, ma anche uffici, bar e stazioni. Il Premier Conte dice: attenzione alta. E il commento oggi è di Luigi Ripamonti, che è il responsabile delle pagine del Corriere Salute, è un medico e un giornalista, il titolo è Una sfida per tutti, e tra le altre cose scrive Ripamonti: questo non deve essere il momento del panico, al contrario, tutti dobbiamo mantenere e mostrare nervi saldi. A livello individuale, quanto è stato finora opportunamente predicato va messo in pratica, a cominciare dall'adozione delle misure utili per proteggersi e proteggere gli altri, fino ad arrivare al mantenimento di comportamenti razionali a livello sociale. E prosegue ancora Ripamonti: altrettanto vale però a livello politico. Chi ci rappresenta è chiamato ad adottare senza tentennamenti misure equilibrate e basate su evidenze scientifiche a seconda della situazione. In Italia questo è tecnicamente possibile, perché il nostro paese è dotato di strutture di igiene e sanità pubblica addette alla prevenzione, per esempio attraverso le vaccinazioni, però appunto quello che è tecnicamente possibile è poi diverso da quello che potrebbe accadere, quindi testa sulle spalle è la raccomandazione che ci sentiamo tutti quanti ovviamente di fare. Repubblica sceglie un titolo più aggressivo, diciamo, virus, il Nord nella paura. Questo è il titolo sotto il cappello L'emergenza e poi dettaglia l'allarme, già 15 contagiati in Lombardia, tra cui medici e infermieri a Codogno, un focolaio anche a Padova, il blocco di 10 comuni isolati, 50.000 abitanti costretti a rimanere in casa, scuole chiuse, no messe e partite di calcio. E poi il piano, il ministro Speranza, quarantena obbligatoria perché arriva dalla Cina, Salvini dice confini blindati e Premier Conte risponde non serve. Ricorda poi Repubblica dell'anziano contagiato che è morto ieri sera ed è la prima vittima in Italia. Le fotografie sono tutte relative alla cittadina di Codogno, che è il tipico centro abitato della pianura padana, insomma case basse, due piani, queste strade che attraversano completamente il paese di passaggio, come poi dicono anche molti dei residenti, siamo un paese di passaggio, persone che poi magari vanno a lavorare a Milano, si fermano, bevono il caffè, fanno due chiacchiere, comprano il giornale, insomma il tipico paese appunto della pianura padana. Al centro della pagina di Repubblica le 10 cose da sapere per evitare i rischi, che poi vengono dettagliate nell'interno, e altri temi sulla prima di Repubblica sono la strage di Hanau in Germania pochi giorni fa, quell'incubo venuto da lontano, una sconfitta per la Merkel, così il titolo, e poi un'intervista a Giorgio Armani, La moda fa del male alle donne, questo è il titolo. Andiamo alla Stampa, la stessa immagine più o meno di Codogno campeggia sulla prima della Stampa, il titolo qui è Coronavirus, primo morto in Italia, il governo ordina la chiusura di scuole e uffici in 10 comuni dell'Lodigiano, la regione dice non uscite. La prima vittima, un 78enne di Padova, 15 casi in Lombardia, grave un uomo contaminato dall'amico senza sintomi, anche se su questo ancora si sta indagando, come sappiamo, comunque questa sembra essere la pista principale, diciamo la via attraverso la quale si pensa sia passato il contagio. Altri temi, accordo con Mittal, lo Stato entra nel capitale ex Ilva per quel che riguarda Taranto, e poi ancora l'Europa al palo, fallisce il negoziato sul bilancio. E andiamo alla Nazione, quotidiano nazionale, il tema per il quotidiano nazionale e il titolo è Contagi e paura, il morbo è tra noi, in Lombardia 15 casi, grave un uomo di 38 anni, ricoverata la moglie incinta, scuole e bar chiusi. Due anziani colpiti in Veneto, il governo quarantena obbligatoria per chi torna dalla Cina. Centropagina, un'infermiera con mascherina, come difendersi dal virus. Però c'è poi uno specifico approfondimento per quello che riguarda la Nazione, che sceglie, vista la grande comunità cinese che è già in regione perché vi vive stabilmente, ma anche viste le centinaia di persone che stanno rientrando dalla Cina dopo il Capodanno cinese, si sono trattenute più a lungo, ma comunque adesso stanno rientrando oltre 2.500 persone, leggiamo, e questo poi ha fatto scaturire una serie di polemiche di cui abbiamo sentito nei giorni scorsi sull'opportunità che vengano messi tutti in quarantena per forza, che sia una quarantena volontaria, eccetera, eccetera. Comunque la Nazione ha deciso di pubblicare in cinese una serie di avvisi alle popolazioni, alle persone che stanno rientrando, in modo che ci siano proprio delle indicazioni precise a loro dirette in una lingua comprensibile chiaramente, diciamo, per chi appunto arriva dalla Cina. Dice la Nazione 2.500 persone sono di rientro, mentre a Prato, ma potrei citare lo Smannoro, Sesto, Campi, Firenze, i suoi turisti, scrive Agnese Pini, la comunità cinese conta 40.000 tra uomini, donne e bambini. 15.000 però sono anche clandestini e quindi fantasmi, magari non capiscono l'italiano, quindi abbiamo preso questa decisione e attraverso le pagine del nostro giornale cerchiamo di fare pervenire dei consigli per la prevenzione della diffusione del virus. Andiamo al giornale. Titolo di apertura: Italia infetta. In Veneto il primo morto di coronavirus, focolaio a Lodi, 15 casi, 50.000 in isolamento, emergenza nazionale. L'OMS dice è difficile fermarlo. Però poi dopo, come già nelle scorse settimane avevamo visto, il giornale ha una prudenza, ecco, cerca di trasmettere prudenza ai suoi lettori. Tra l'altro, in prima pagina leggiamo un articolo bello ma lungo e non riusciamo a leggerlo tutto, di Giordano Bruno Guerri, che insomma esorta a avere una sana paura ma non il panico rispetto a queste cose, quindi di trattare tutto con razionalità e con appunto evitando il panico. Andiamo al Fatto Quotidiano, dove il tema di apertura è: sì, il virus in Italia con 17 infettati, paesi deserti, rissa politica, però confinato in uno spazio un po' più piccolo, campeggia centro pagina, invece è tornato il Minkul Pop. Censure a una notizia vera del TG2, alla Berlinguer per una battuta di Corona, a Lerner per un servizio sui lager libici. Qui il riferimento è alle motivazioni per le quali la GCOM infligge una multa alla RAI da 1,5 milioni per varie violazioni riscontrate nelle sue trasmissioni. Leggeremo poi qualche dettaglio in più anche dal Sole 24 Ore. Sul Fatto Quotidiano mi piace ricordare che viene evidenziato un problema serio italiano, che è quello dell'azzardo, 110 miliardi l'anno tra bische e web aggirando la legge. E poi si riporta un tema dimenticato, fa bene il Fatto Quotidiano a riportarlo in prima pagina, perché a un anno dal golpe in Venezuela, a Caracas Guaidó è in declino, parola dell'ambasciatore. Così il Fatto Quotidiano. Abbiamo la viabilità, poi proseguiamo tra pochissimo. In primo piano. Continuiamo con il Messaggero, dove il titolo avanza: il virus Nord in quarantena. Il contagio arriva in Italia in un giorno, 17 casi accertati tra Lombardia e Veneto, cordone per 11 comuni. Ci ricorda poi il Messaggero che è grave, l'uomo di 38 anni positivo al virus e la moglie incinta, e 5 sanitari, il ministero in isolamento, chi viene dalla Cina. E poi specifico su Roma: a Roma 700 posti letto, siamo pronti a intervenire, guariti i due cinesi. E così apprendiamo che i due cinesi e il primo italiano che era stato infettato sono guariti, e quindi questa è una buona notizia in un panorama sicuramente oggi un pochino allarmante. Dal Messaggero, su tutt'altro tema, vale la pena ricordare come intanto le cose vanno avanti e si parla del Green New Deal, il Green New Deal del governo, che dovrebbe rappresentare una tappa importante della politica economica di questo esecutivo. E il rischio, leggiamo così dalle pagine del Messaggero, con appunto un giudizio ovviamente implicito, è quello di più tasse ambientali nel piano del governo. Tra gli inasprimenti fiscali ipotizzati nel testo spicca l'aumento di 6 euro a passeggero dell'attuale tassa di imbarco sugli aerei, sostiene Luca Cifoni in questo articolo. I proventi dovrebbero essere destinati a programmi nazionali e comunali di investimenti ambientali, culturali e paesaggistici. Verrebbe rivista anche la cosiddetta ecotassa, ovvero il tributo per il deposito in discarica, che passerebbe a 50 euro, ovvero il doppio di quanto si paga attualmente. Il canone delle attività estrattive potrebbe essere portato al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati, con dei minimi specifici per i vari prodotti. E poi nuove tariffe scatterebbero anche per le concessioni demaniali marittime. Verrebbero simmetricamente introdotte specifiche riduzioni di imposta, è il caso dell'IRES, per i soggetti che investono in costi con finalità ambientali. E poi c'è il capitolo dei sussidi ambientalmente dannosi, il cui valore è calcolato in circa 19 miliardi. Sono previste varie possibilità di intervento alternative tra di loro. E insomma, così i rischi sulle tasse ambientali, sul Messaggero, che ovviamente poi dettaglia più nello specifico. Andiamo alla verità. Un governo in quarantena, il virus è già diffuso in 10 comuni, oltre 50.000 le persone isolate, alcuni malati sono gravissimi. Davanti a questi numeri, finalmente il ministro ammette che difendere la salute non è razzismo e impone l'obbligo di segregare per 14 giorni chi torna dalla Cina, e speriamo non sia troppo tardi. Sì, ma dalla Cina non tornano solo i cinesi, comunque. Questo lo evidenzia il caso di Lodi. Sempre dalla prima della verità ci sono, scusate l'osservazione personale, ci sono decine di italiani prigionieri in Qatar. Questo è un tema che vale sicuramente la pena di approfondire, lo lancia la verità. Inquietante racconto di un imprenditore che è riuscito a fuggire con il kayak. E qui sicuramente, purtroppo non so quanto, 6 minuti abbiamo al termine, vediamo quello che riusciamo a riprendere. Fino a la storia, appunto, viene narrata da Ferruccio Cerutti, manager di Etea Sicurezza, sequestrato quasi un anno a Doha, poi è riuscito a scappare con un kayak in Bahrain e dice: ho perso circa 10 milioni di euro e compromesso tutto il mio lavoro. A quanto apprende la verità, ci sono decine di italiani prigionieri in Qatar solo per decisioni arbitrarie legate a operazioni economiche nel paese. Secondo la legge del Qatar, infatti, lo sponsor, il socio che gestisce una società con uno straniero, ha il pieno potere di negare il permesso di uscita dal paese fino al 5% del personale che lavora nell'azienda. E il potere di imporre il cosiddetto travel ban, un divieto di uscita. In Qatar, data l'importanza economica e strategica, tra 2 anni ci saranno i mondiali di calcio, è comunque concessa questa opzione di cui si parla molto poco. Eppure a guardare i vecchi tweet dell'ex ambasciatore Salzano sembra una specie di paese delle meraviglie dove tutto è in ordine e i problemi non esistono. Va bene, allora viene portata più avanti questa storia, comunque dalle pagine della verità, una questione sicuramente nuova. Il manifesto, fermi tutti, questo è il titolo. In Lombardia 14 casi, in Veneto 2, il coronavirus crea il panico a Codogno nel nord Italia. Ordinanza del Ministero della Salute, chiuse scuole e attività commerciali, quarantena domiciliare per chi ha avuto contatti con i contagiati. 10 comuni dell'Odigiano chiusi, in isolamento 50.000 persone. Il riassunto della questione fatto dal manifesto sotto la sua fotonotizia, che oggi però non è alternativa come di solito, perché anche qui è l'immagine del centro di Codogno, appunto, che dicevamo, come dicevamo prima, le consuete case basse dei centri abitati della bassa Lombardia. Avvenire, il virus parla pure italiano, focolai a Lodi con 15 persone contagiate, grave un giovane con molti contatti, positivi 5 medici. E al centro pagina l'immagine, questa volta sì di Codogno, ma della chiesa centrale del paese, la classica piazza davanti alla chiesa dei paesini, i paesi fantasma del tutto chiuso, sono 10 comuni interessati dall'ordinanza regionale. Centro pagina di Avvenire, stop ai guardacoste libici, la commissaria ai diritti umani dice Roma deve bloccare la cooperazione. Il Consiglio d'Europa punta il dito contro il trattamento dei migranti riportati nei lager. Chiedo al vostro governo di sospendere ogni attività di cooperazione con la Guardia Costiera Libica che comporta direttamente o indirettamente il respingimento di persone intercettate in mare e riportate a terra nei campi di tortura di un paese in guerra civile. La richiesta della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al governo italiano è perentoria e comincia da un rimprovero. L'Italia deve riconoscere la realtà della situazione in Libia. E Avvenire è l'unico quotidiano che abbiamo visto riportare questo tema in prima pagina. Vediamo anche Libero, che titola Vade retro virus, primo morto, un 77enne a Padova. E poi al centro pagina ritroviamo Francesco Facchinetti che si racconta: sì, ho i capelli nuovi e non sono mai stato così felice. E due temi decisamente diversi sulla prima di Libero. Il secolo XIX, infine, in conclusione, chiusi per virus, L'Italia fa i conti con i primi casi di contagio, 15 in Lombardia, 2 in Veneto, in 10 comuni del Lodigiano stop ogni attività, 50.000 persone a casa. Ma sulla prima del secolo XIX, che ovviamente riporta la questione del coronavirus, tra l'altro per fortuna si è spento l'allarme che si era acceso ieri in Liguria perché sono stati negativi i test condotti su un paziente che è stato analizzato a Genova. Dicevo, sulla prima del secolo XIX c'è anche la festa per il ponte, rinato in 70 giorni. Da Savona, esempio per l'Italia, abbiamo detto in apertura, proprio sulle 24 ore c'è un approfondimento su questa questione. Per un ponte che nasce, però, ce ne sono, abbiamo sentito, molti altri che andranno revisionati da qui al e rifatti quasi praticamente da qui al 2036, se non ricordo male, abbiamo letto. E comunque questo è, torniamo a parlare di questi temi tra poco in GR24, ci ritroviamo invece alle 8.30 con Si può fare, tra l'altro in questa puntata sarà ospite la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova per parlare appunto di tutti quei lotti di terreno che vengono messi all'asta e che il governo intende soprattutto portare, diciamo, ai giovani come una possibilità di lavoro futuro. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, grazie a Paolo Corleoni e appunto appuntamento alle 8.30.